Questo pianeta si chiama Venere, è il pianeta che puzza, puzza di zolfo, come la saponetta per pulire. Per volare su Venere dobbiamo tapparci il naso. Abbiamo creato la Terra di Venere, con il bicarbonato, il zolfo e l'aceto, e puzzava.